Craig Leon dal suo disco forse capolavoro, visto che poi dopo farà altre cose anche abbastanza importanti. Il suo secondo disco Visiting ha degli accenni molto molto interessanti per le ricerche musicali, forse più così anticipatore di certa ambient degli anni 90. In questo senso ci riprendiamo, come dire, a pieno un revival che non è ancora scoppiato, ma 451, insomma, sente già l'odore di un revival anni 90, perlomeno insomma è voluto da molti, che poi insomma sia un revival legato a certe sonorità, vedremo se sono quelle appunto di Sabro Paradise, di Andy Waterhall, e di una ricerca sonora che andava tanto a pescare da personaggi come Craig Leon, quindi quella New York furente degli anni Ottanta, presa tanto da forme paraetniche, impossibilmente etniche, visto che è una città attraversata veramente da mille etnie, da mille suoni, colori, sapori, anche perché c'è stato insomma, avrà avuto insomma un impatto devastante a livello sia sonoro ma anche legato all'odorato. È incredibile e come si stratifichino sia i suoni che anche appunto l'odore e gli odori che attraversano quella città, creando appunto una commistione incredibile che dentro le musiche di Nomos, di Craig Leon, come dire, risuonano in maniera incredibilmente iperbolica, come d'altronde anche in certa evocazione creata e ricreata poi sulle orme di Craig Leon, sia in termini ritmici ma anche in termini di quelle sperimentazioni legate a un ambient sound che prendeva le mosse sì dal grande Brian Eno, ma che già con figure come Leon si spostava verso poi quel tout court dell'ambient, che partirà come ambient house, mental, qualcuno lo chiamava all'inizio degli anni 90, farsi più tout court rispetto al grande Eno, che si rifaceva all'altrettanto grande Satie, quindi con una linearità, un fil rouge, appunto, come si dice da queste parti, che univa l'avanguardia alla neoavanguardia, alle sperimentazioni sulle possibilità sonore. Ricordiamo le Possible Music, che per tanti versi attraverseranno anche un lavoro come Nomos, e che per influenze varie, diverse, arriveranno anche a Andy Waterhall con i suoi Sabro Paradise, progetto assolutamente fondamentale per chi voglia capire certi anni 90 con una memoria fortissima, una memoria però che va veramente, veramente verso la deflagrazione, legata a una ricerca sonora mai doma di Waterhall, tuttora con progetti assai significativi per i nostri tempi, continua nelle sue elaborazioni sonore. L'Asphodel, ultimo progetto, una delle cose più interessanti di questi anni 10, che suonano un po' strano detti così, però di fatto insomma siamo proprio negli anni 10 del nuovo secolo, se non addirittura un nuovo millennio, ma senza insomma ricreare millenarismi, insomma, che sono andati anche un po', come dire, perduti nel dicembre del 2012, quando insomma aspettavamo la fine del mondo per una strana insomma profezia maya che non si è avverata, oppure si è avverata e non ce ne siamo accorti, cosa anche piuttosto probabile visti i tempi. Sabro Paradise ripercorrono quindi un un certo qual modo le orme sia di Coil che di, per intensità e per profondità di ricerca, sia quelle di una certa cosmicità, di una certa wave industrial che prendeva tanto dai tedeschi quanto da certe distopie dentro gli album non ambient di Ino, sempre citando lui, avendo parallelismi con personaggi come prima abbiamo citato Aphex Twin, e con sottolineo questa cosa, con questa memoria sonora legata a una wave e a un post-punk, forse per meglio dire, ritrovando anche insomma la caratterizzazione che ne dà Sam Reynolds nel suo splendido omonimo libro, brumosa, cattiva e antagonista, che si ritrova anche nel loro primo lavoro, andando a trovare appunto Cybersonic del 1993, con questa fabbrica di orologi che va a creare mondi assolutamente da incubo, da distruzione, appunto questa apertura compiuta da Cyber Paradise, una Pandora che si ripete, si amplifica nelle varie progettualità che stiamo mettendo questa sera, qua 451 frammenti sonori, va a impattare con questa costruzione meccanica decisamente esplosiva, questa Clock Factory da Cyber Paradise. Yeah. rischio quasi morriconiano. Waterhall sicuramente sarà un amante delle musiche del maestro Morricone, e con tanto di riferimenti a Coil, ricorda anche per molti versi, inizio trasmissione l'abbiamo citata, Ostia, proprio il pezzo dedicato a Pasolini, e con quel senso assolutamente tecnoide dei primi anni 90, quella spinta, quella futuristica macchina che veniva oleata e lanciata anche a velocità piuttosto insomma elevate da parte non soltanto di Detroit, della musica nera, techno, ma anche da parte di inglesi come Waterhall, cresciuti a botte di Throbbing Gristle, a botte di Public Image Limited, a botte di T-Zit, insomma quel post-punk decisamente industrial, decisamente antagonista, fuori da certi anche, volendo per tanti versi, wave pop che poi hanno venduto anche piuttosto tanto, loro sempre, insomma, in particolar modo Waterhall, schierato su quel strano fronte che poi tanto strano a ben vedere, a ben sentire non è, cioè quella possibilità di essere in vari luoghi sonori, non perdendo in caratteristiche, anzi acquisendo proprio quella caratteristica fondamentale che progetti come Sabor Paradise, True Lord Swordsman, fino ad arrivare a Asphodel, prendono proprio da queste memorie storiche, memorie sonore e antagoniste, non perdendo mai di vista neanche quella sorta di comunicatività pop, seppur un pop decisamente traslato dentro la mente, dentro la macchina di Waterhall. Come d'altronde memore sicuramente di Waterhall sarà stata Anne Gill, un personaggio assolutamente misconosciuto, torneremo anche nella prossima trasmissione approfondendo anche il discorso della Gill, anch'essa inglese, vicino a tremendisti terroristi sonori come William Bennett di White House, di Condom, ma anche a Jupiter Larsen del giro di Mark Paulin, quindi quella performance legata tanto al un futurismo decisamente esplosivo, come esplosive furono le macchine che faceva saltare Mark Paulin durante i suoi happening iper industrial, si potrebbero definire tali, e anche con quel senso dada di decostruzione, di distruzione poi dell'arte, che attraversa per certi versi anche il lavoro di Anne Guinness, forse un po' più raffinata, ma se il senso insomma viene dato da questa parola per Anne Gills, più forse morbida per altri aspetti rispetto appunto a Condom e al progettualità di Bennett o di GX, Jupiter Larsen e Mark Paulin, ma con quel senso profondo anch'essa di scoperta, a questo punto la vera e propria Pandora della serata, visto anche insomma la comunanza di sesso di Anne Gills con la mitica figura appunto di Pandora, che andiamo a trovare con un breve estratto da film noir, bella compilazione che studiava i film noir con tutte quelle attitudini appunto dentro il cinema noir, sia in termini europei, quindi del polar francese, sia nel vero e proprio noir americano, ma torneremo probabilmente anche su questa compilazione che vede anche Anne Gills dentro appunto film noir. L'andiamo a prendere con questo breve estratto per poi addentrarci verso insomma la conclusione di 451 frammenti sonori, e così sperando insomma di scoperchiare per la seconda volta, quindi regalando speranza, il vaso di Pandora. Adesso per il momento insomma andiamo a trovare forse un'ambivalenza, come probabilmente anche buona parte dei pezzi messi questa sera qua da queste parti, ovvero tra distruzione e speranza. N. Gills. Thank you. apart. Fight back, D'Angelo, fight back. Blue skies, sweet skin. Blue sky, sweet skin. Fight back, the angel, fight back. And I'll try to perish. Another fly to all tears. Blue sky, sweet skin. Fight back, the angels, fight back. Another try to perish. Another fly to all tears. Fight back. Good, bad. Fight back, the angel. Fight back, the nosy. Another fly to all tears. Fight back, the angels, fight back. Blue sky, sweet skin, blue sky. Fight back, the angels, sweet fight skin. Back. Another try to perish. Another try to perish. Another fly to all tears. Another fly to all tears. Good, bad. Bloody nosy. Angels, fight back. Beh, dopo Anne Gills siamo andati a trovare il magico mondo, magico anche in termini negativi, forse per pseudo code storica, formazione assolutamente straordinaria nel creare atmosfere allucinate dentro quella caratterizzazione già di per sé allucinata che era legata all'ambiente dell'industrial music. Pseudo Call Belgi, Alan Neff, Xaver S e poi soprattutto Guy Mark Inant, che dobbiamo ringraziare non soltanto per la splendida formazione del Pseudo Code, che finalmente tra l'altro viene ristampata proprio dalla Sub Rosa, proprio perché Guy Mark Inant, o Inant forse per meglio dire, crea intorno agli anni 80, proprio dopo la sua splendida avventura come Pseudo Code, che tra l'altro ci serve anche, come dire, per dare una falsa coda, appunto una pseudo code qua per 451 frammenti sonori. In mia compagnia, in compagnia di Max Macchia, crea la Sub Rosa dopo questa progettualità di Pseudo Code, tanto avendo l'orecchio ancora alle musiche industrial più sperimentali, se pensiamo alle Mitz compilation straordinari con dentro William Burroughs, forse il grande mentore uno dei grandi mentori dell'industrial, sia come cultura shock che anche come tattica o strategia sonora legata al suo cut-up, e anche Sub Rosa attenta con Guy Mark Inant a creare poi quel ponte con le avanguardie e con le nuove sonorità che si muoveranno dentro Sub Rosa. Pensiamo, facciamo un nome su tutti, ad esempio Scanner, Devishia, mi esce un altro nome che tra l'altro collaborò anche con Scanner, ma tantissime progettualità che sono state molto curate nel corso degli anni, appunto dagli anni 80 in poi, come Sub Rosa, ritrovando invece il percorso di Pseudo Code con le attuali ristampe proprio da Sub Rosa, ha ritrovato, come dire, il coraggio di tirare fuori il materiale suo primigenio industrial, come questa formazione magistrale insegna a trattare le magie sonore con tanto di distopia e di caratterizzazione noir, insomma, in collegamento con anche Anne Gills ascoltata prima, e con anche varietà sonore che si esprimeranno poi dentro certe forme di post rock più crepuscolare, certe forme di musiche tra analogico e digitale che vanno a impattare tanto dentro forme di isolazionismo quanto dentro fantasticherie nuove, appunto creando nuovi scenari sonori. Io vi abbandono qua con appunto questa falsa coda, con questa duplicità data dalla doppia apertura del vaso di Pandora, tanto quanto una distruzione e tanto quanto appunto una ricostruzione legata appunto a un sottofondo di speranza che appunto nella seconda apertura, nella seconda scoperchiamento di questo benedetto, maledetto vaso di Pandora di fatto compie, e compiendo appunto questa prima tranche di 451 frammenti sonori per questo 2014, Max Macchia vi saluta qua, vi rimanda mercoledì prossimo sempre intorno alle 24, e insomma, come siamo stati abituati nel corso degli anni, vi salutiamo, vi saluto in questo caso, insomma, dicendovi, augurandovi di fare i bravi, bravi se potete, e se no altrimenti, insomma, sapete cosa diavolo fare a questo punto, mi viene da dire. Ben ritrovati, comunque contento insomma di potervelo dire. 451 frammenti sonori, quindi torna mercoledì prossimo dalle 24 in poi, di notte chiaramente, sì, d'altronde le 24 sono proprio decisamente notturne, con la mia compagnia, spero insomma gradita, rigradita, anzi di appunto Max Macchia. Ciao, alla prossima. Put your relays upon down.